dove non c'è la dittatura, puoi parlare senza aver paura. Sì, è vero che c'è la censura, io lo rappo sopra la battuta. Omeopata reporter, il mio rap è nemico pubblico. C'ho le rime per la testa e il movimento pubblico. Se qualcuno me lo vieta è il momento che pubblico. Come in Russia la Novaya Gazzetta, dove sparisci subito. E in garage Olimpo non c'è niente di finto. In Argentina desaparecidos, lo cantava pure Sting. Siamo in regressione, è in Birmania con il business delle armi che alimenta dittatura e repressione. Come tutte le altre guerre c'è chi ci fa il money, c'è chi ci fa il cash, c'è chi ci fa il grano. E ci fregano anche noi se non lo diciamo, se non lo diciamo, lo sai. Grazie a Dio non c'è la dittatura, puoi parlare senza aver paura. Sì, è vero che c'è la censura, io lo rappo sopra la battuta. Se non racconti il male, come trovi la cura? Come trovi la cura? Qui il passato si traveste da presente. Anche Bush pensa ai soldi altro che presidente. Perché non cambia niente se non dici niente. Michael Morty svela l'11 settembre con il suo documentario. C'ho il mio armamentario e Santoro la Guzzanti. Negli anni del regime, se c'è chi reprime, anch'io butto il mio lavoro nel cesso. Vorrei essere più ricco ma da povero non mi disprezzo. Grazie a Dio non c'è la dittatura, puoi parlare senza aver paura. Sì, è vero che c'è la censura, io lo rappo sopra la battuta. Se fai un libro che denuncia la camorra, devi andare in giro con la scorta. Mentre il parlamentare per parlamentare ha uno stipendio in dispendio che è da alimentare. Ci soggioga con l'80% di tasse da pagare, chi c'ha voglia di lavorare. Grazie a Dio non c'è la dittatura, puoi parlare senza aver paura. Sì, è vero che c'è la censura, io lo rappo sopra la battuta. Grazie a Dio non c'è la dittatura, puoi parlare senza aver paura. Sì, è vero che c'è la censura, io lo rappo sopra la battuta.